qualcuno sul canale 10? Attenzione 10. Attenzione canale 10, brecco. Ma non mi senti. Ehi, aspetta un attimo, rispondo al telefono. Capo, vabbè, il microfono a posto. Boh. Ah. Beh, già. Uia, Claudio. Ehi, ah, dimmi come sto uscendo intanto, che oggi ho lasciato tutto il giorno accesa con la radio, 25:47, quel Galaxy. E gli ho messo il microfono di tavola, l'MB+5. Già è accettabile, non è la tua voce, non è la tua voce come col Kewd, però è accettabile, dai. Vabbè, che non sia la modulazione del capo, questo è normale, questo è un altro microfono, altra radio, sto un baracchino. Però rispetto a ieri mi ascolti molto meglio. Capo, sì, è molto meglio, sì. Questo qui che cosa è? L'MB+4 lì? No, l'MB+5, ma c'ho... è a uno, a uno e mezzo il microfono, a uno e mezzo, e il Mickey Gain della radio non è neanche a metà. Prova a farlo. Allora, guarda, così è a metà, così lo sollevo ancora di più della metà, mezzogiorno e 10, troppo alto. Metti la metà che va bene, di lusso, la metà è... la tua voce bella presente. E te la ponavo così? Cappa. Hai visto? Vabbè, senti anche il tum, no? Senti tu. Praticamente questa qui è la tua voce, c'ha tutti i medio alti, eccetera. Sì, va bene, va benissimo. Ti ricordo già, questa radio era 2 anni spenta, 2 anni spenta. Da ieri che ce l'avevo qua in mezzo, e adesso la sua stare accesa così, da ieri è accesa, qui sono caricati bene i condensatori, tutto. Ieri magari mi sentivi anche male perché, insomma, tanti anni spenta, invece adesso è a posto. E c'ho l'MB+5 che ha le stesse connessioni, era Galaxy, quindi è rimasto Galaxy, capito? Cioè Galaxy, poi vai, qualche altra radiofante. Quindi la modulazione va bene, se il segnale come è buono, allora mi sta dando esattamente 25 watt. Sì, va bene, anche il segnale. No, già va bene, è di lusso. Questo qui, vabbè, questo del... come si chiama? Del Cobra, non è molto affidabile. Dovrei attaccare per darci il segnale giusto il Galaxy, perché quello del Cobra è un po' avaro come smitte. Già me lo ricordo già da tempo che facevamo le prove ed era un po' tirchio. Comunque l'importante è che la modulazione sia buona, accettabile, così lo faccio andare un po', capito? Visto che sto entrando nuovamente un pochino al 27, facciamo andare questo baracco. Bella presente, dai. È che sei entrato in ritardo, io alle 8:15, 10:00 ci porto a te su giù. Sei entrato un po' tardi. Oddio, ce l'avevo acceso tutta la sera. Vabbè, ero su TikTok, stavo guardando altre cose, però ce l'avevo sempre acceso. Ma tu dovresti fare in modo come faccio io, attacco la ciabatta e si accendono tutti, capito? Così almeno li lascio accesi, come attacco la ciabatta si scaldano tutti quanti, anche se non entra nessuno li lascio accesi. No, già qua non c'è una ciabatta, qua c'è il quadretto e gli alimentatori sono 3 e sono tutti e 3 accesi. No, ma sono entrato tardi perché ero dall'oculista già, avevo la vista alle 6, capito, alle 18, quindi tra andare e tornare ci ha entrato anche prima, non c'è problema. Sì, vabbè, ognuno ha le sue cose da fare. Di contarli, perché per me dopo le 7:30 questo qui comincia già a piazzarmi la mimula e comincia che vuole scendere, capito? Un orologio, non ti credere, alle 8:15 lui mi piazza la mimula. Ah, invece questo si è ricoglionito, prima usciva a questa ora, mi ha sono arrivato, gli ho aperto la porta, ha guardato fuori e se ne è rientrato dentro. Adesso esce stanotte, capito? Fortunatamente non ho problemi, gli apro la porta ed esce. Capito? Questo si è rincoglionito, questo oramai ha preso il giorno per la notte, non è venuto da là. E tu c'hai la comodità che gli apri la porta e esce. Però ti fa camminare di meno, tu fai meno movimenti, invece io devo farmi la passeggiata ogni sera, ogni mattina, devo farmi la passeggiata obbligatoria. Ma già va bene, perché c'è stato un periodo che mi ha preso la sciatica, non riuscivo più a muovere le gambe, un dolore qua. Ho dovuto mettere quel massimo cavallo che è miracoloso. È un problema, sì, perché quando stai male, sta piovendo eccetera, non puoi uscire, lui c'è la comodità, capito? Io ho 10 metri di veranda, quindi se mi fa la pipì in veranda non me ne frega niente, prendo la pompa e do una sciacquata, ma il resto lo fa sempre in giardino, nell'erba, non ne fa di niente, capito? Già cammino io, qua a Piazza dei Cigni a camminare io, non tutti i giorni, già mi sono organizzato, e se no ti va un raio, no? E così, infatti anche a Filippo le unghie le crescono molto molto più in fretta rispetto a prima, però lo porto l'amore che è a Via Napoli e va in Via Napoli, via Pascoli e gliele taglia. Sì, mi stavo ascoltando già, è abbastanza corposa come modulazione, mi piace, 25 watt pieni, alla massima potenza, va bene, adesso gli ho dato tutta la massima potenza perché ho visto che la radio era accesa e quindi già va bene. Sì, ma ho notato che dalla metà la massima potenza non cambia nulla praticamente, quindi è come se te l'ho fatto regolare io. Cambia poco, cioè non cambia nulla, per me non cambia, non aumenta. No, va bene, c'ho anche un linearetto io di quelli piccolini, come si chiama, quelli 747, volendo posso fare un impiantino suo con 10 watt, 8 watt, e ne dà fuori una settantina, ma non me ne ha fatti nulla già. Lo sto usando giusto per farlo andare, almeno so che funziona ed è perfetto. Insomma, un'altra sera, un altro giorno attacco il presidente, quello base, non so se il Madison Jackson, buon nome a me. Anche quello funziona perfettamente, è molto bello anche esteticamente, è tutto cromato anche quello davanti, e c'è una buona ricezione. Trasmissione non lo so, non l'ho mai provato, però come ricezione è abbastanza buona. Qual è il Washington? Ah sì, che ha parito, che non me lo ricordo, sì, c'è il Washington, te l'ha mandata la foto, Franco, è in alto sullo scaffale, sì, il Washington, è nuova anche quella, bellissima. L'ho avuto anche io quello lì, va benissimo di radio, esce anche forte. Dipende sempre dal microfono che li metti, ma anche con il microfono suo originale esce forte. No, io c'ho sempre, per quelle radio lì c'ho sempre questo, ne ho due MB più 5, poi c'ho la Wire, che è praticamente quello che hai avuto tu, ma non quello con l'equalizzatore, l'altro, il 508, quello più piccolo, e con quello funziona lo stesso molto molto bene, capito? I microfoni già ne ho, c'ho lo Shure, il Pernet più 3, il Pernet più 2, tutti da tavolo, ce li ho, e ne ho microfoni, però quelli che uso molto sono gli MB più 5 con i baracchini, capito? Ma se quanti ne avevi i MB più 5? Me lo ricordo che avevi comprato una giornata. Ne avevo 8. 8 ne avevo MB più 5 e un MB più 4. 8, ma sono rimasti due soli. Io ho questo qua che ho col Galaxy, vabbè, l'ho fatto la modifica io, finisce benissimo col Galaxy, hai sentito? No, ieri esce molto bene. Vabbè, sono microfoni che per quello che costano vanno molto bene. E io lo credo che vanno bene, alla grande. Alla grande, ma poi l'abbiamo già fatto le prove già. Questo è il MB più 5, vabbè, quando l'abbiamo iniziato a comprare noi costava una cagata. Adesso ci vogliono 70 euro a comprare il MB più 5, però qualità prezzo diciamo che è un ottimo microfono per i baracchini, dai. Sì, sì, sì. E io, vabbè, ho le MB più 4, ma le MB più 5 dovevo, ti ricordi, dovevo chiudere tutti i tuni, perché se no uscivo male. Con i tuni tutti quanti chiusi al minimo andava bene. Sì, sì, ma anch'io ho i tuni chiusi, non ne ho bisogno di tonalità, grazie a Dio. C'ho solo il Mickey Gain, te l'ho detto. Adesso ce l'ho 1,5, poco fa te l'ho messo a... No, l'ho lasciato stare, ho toccato solo il Mickey Gain della radio. La radio ce l'ho a mezzogiorno e basta. E il Mickey Gain del microfono è sempre 1,5. K. Che ne so? Le 35 fra un po'. Le 8, quasi le 8, ma 25. Se ti preparare già, preparati tranquillo, ok? Io così mi metto il pigiama, sono ancora vestito. Le prove già le abbiamo fatte, dai. Se ti va, quando sali già sono qua in ascolto, ok? Io altri 10 minuti posso stare, sono già pronto, mi devo mettere le scarpe e basta. Sono già pronto perché sono già uscito e quindi non mi sono cambiato. Sono già uscito con Marco e non mi sono cambiato. Sono andato a prendere un cavetto per il computer perché non sta andando. Praticamente il computer si accende ma non trasmette l'immagine al monitor. Pensavo che fosse il cavetto perché mi segnava il nome del cavetto, MDH, non mi ricordo com'è. Vabbè, comunque sono andato, ho comprato il cavetto e non è quello lì. Sicuramente è la scheda video. Speriamo non sia quella che gocia la 300i. Ah, quel cavetto HDI, HMI, insomma, io ho capito. Vabbè, mi chiede a botte, vedi, sta nella porta e non esce. Si controlla, però non esce. Mi fa impazzire qua, mi sta facendo impazzire, la vecchiaia mi sta facendo impazzire, sto qua. Allucinante. E vabbè, quindi già mi confermi che posso usarlo, lo faccio andare, no, non ci sono problemi di trasmissione, ricezione, tutto a posto. Io ti sento una canonata, qua c'è una ricezione che è una favola. È pulitissima la radio, non c'è nessun rumore di sottofondo, niente, è proprio pulita. Bella, bella. Adesso è paragonabile alla tua voce. Ah, è quello volevo sapere io, quello. Volevo sapere quello, perché così l'abbinamento microfonico è giusto, ma non avevo dubbi, l'MB più 5 si assomiglia, cioè va bene col Galaxy, l'avevo già provato, poi ce l'hai anche tu. Quindi la modulazione è quella, ma è la mia, ha una timbrica un po' diversa a causa delle mie mitiche corde vocali, ma è così. Ma dimmi una cosa, è Rata Pignara entrando, non sta entrando più nessuno? Rata Pignara è entrato l'altro giorno, ha fatto cucù e poi se n'è andato, ma c'ha la madre che non sta bene, quindi è sempre faccendato con la madre, capito? E quando può ci ascolta, ogni tanto fa cucù. È proprio un pipistrello, cazzo, non c'è niente da fare. Vabbè, piano piano le mettiamo in sesto, adesso inizia l'inverno, siamo tutti a casa. E due chiacchiere ce le facciamo, dai. È giusto per darvi un po' di supporto, come ho detto a Giulio, per non abbandonare del tutto, ma io purtroppo devo dare un colpo qui, un colpo là, ma già mi faccio sentire spesso anche qua adesso, non c'è problema. Anche questa frequenza fa parte di te, quindi lo devi fare volentieri, dai. Io non ho mai mollato, tu lo sai perché mi senti, non ho mai mollato perché non voglio che muoia questa frequenza qua, perché io sono 50 anni che modulo, quindi. Io ho iniziato nel 74, come sai benissimo questo canale l'abbiamo attivato io e tu e la buona anima è natalino, quindi stati dei periodi di molto, molto, molto, molto, molte cose da fare, parecchie, parecchie, parecchie, perché io sono arrivato qua, ancora non era finito, quindi tante cose da fare, organizzazioni, balle, poi un sacco di cose, stanchezza, poi c'è stato un periodo che stavo anche lavorando al di fuori di casa, stavo dando la mano, poi la casa di Porto Torres che ci ha fatto dannare, a svuotarla, a fare, capito, e lascia perdere, un sacco di cose, un po' quello, un po' tutto, non avevo gana di stare 27, giusto, facevo due chiacchiere in VHF e basta, però io sono nato qua, e qua voglio morire, come si dice, no? Quindi spero di non allontanarmi del tutto, ma insomma, piano piano già mi sto avvicinando di nuovo. Se c'è gente, se entra gente, ma fammi dare la giura, lascia perdere. Compro, vendo, scambio. Hai aggiornato il casino, eh. Compro, vendo, scambio. E ancora adesso, sempre. Ogni tanto qualcosa la scambiamo, la facciamo, però a livello amatoriale, dai. Poi sono iscritto nuovamente all'Ari, sai, il nostro presidente, il mitico Chirigatto, quindi ogni tanto, adesso il prossimo venerdì ci dobbiamo vedere, una bella pizzata tutti assieme, poi ci abbiamo il pranzo di fine anno, come tutti gli anni, a Saccaggia, non so se lo facciamo lì da qualche altra parte, insomma, anche lì ci sono degli impegni un po' particolari, le attivazioni, le cose, le uscite, non è che, quindi insomma, fa sempre parte, come hai detto tu, della radio, E c'è una cosa bella, lo facevamo anche la CB prima, se ti ricordi. E vabbè, un po' i periodi sono cambiati, prima te ne ricordi che andavamo a mangiare la pizza anche con quello di Alghero, siamo andati su in via Gorizia a mangiare la pizza, siamo andati in tante parti, anche prima si faceva, ma adesso c'è meno, non lo so, meno entusiasmo, non lo so, qualche cosa è morta. Ma io continuo a dire Gianni che l'amicizia non è più quella di prima, capito? Più grande si diventa e più ci sono esigenze particolari, quindi ognuno ha le sue esigenze e un po' no, hanno mollato in generale, diciamo, un po' hanno mollato in generale, perciò è così, e mi ricordo perfettamente, via Gorizia, siamo andati a mangiare la Faineo, un po' tutti assieme, c'era anche io, insomma c'era un sacco di gente, Stefano, che lui vabbè è sempre fuori, ci sentiamo solo al telefono, però ti ripeto, era una cosa un po' diversa, adesso c'è poco entusiasmo e la gente si è allontanata. Si è allontanata un po' anche dalle amicizie, si è allontanata anche dal sistema radiantistico con questo cacchio di telefoni, è sparito tutto. Sì, ma vedo che qualche cosa c'è sempre, perché vuol dire su internet adesso, io sono in un sito di CB e ci siamo mandati tutti i saluti, hanno salutato da tutte le parti d'Italia. E ho salutato anche io con nominativo, infatti mi hanno fatto i complimenti per il nominativo, mi hanno scritto, è veramente un bel nominativo. Sono più Roma, non attiva Reddo, è ovvio, sì. Sei doppio, doppio. Che da voi non bico, né rum né niente, però una birra magari sì, mangiando la pizza, ma poi a bere proprio non so come ti dici chi sta sempre con la dazza in mano, un burro in carriera, ti vedi con una pulla in mano, io mi bevo quel bicchiere di birra, anche una lattina mangiando la pizza, però finito lì. No, beh anche io mollato, no. Assolutamente a casa il mio bicchiere di vino, se ne ho lo bevo, se no bevo acqua, ma esternamente non ce n'è più per nessuno. Assolutamente, purtroppo quando si diventa un po' più grandetti iniziano gli acciacchi, io prendo anche la pastiglia per il colesterolo, perché me l'avevo trovato alta, capito? Poi ogni settimana cortigione per le gambe, sto prendendo integratori a tutto andare e non sono così messo bene, ho già, lui la sapete, da quando sono qua, poi la campagna, non lo so, però ho peggiorato tantissimo, ma andiamo avanti piano piano. bene così. Che ora so? Le 8 quasi meno un quarto, insomma, già. Eia, finalmente prima. Buona anima del signore Enrico. Tequila dundù, ciupito. Anche lì abbiamo avuto bei colpi. Quei colpi. E adesso però non si può più fare già. A parte io non ne mantengo più. Basta. Appena appena è più che è già gioco a basinetta, proprio perché il fisico non è più quello di prima. Così è, tu li hai già fatti 66, no? Già fatti li hai? No, no, io li faccio a ottobre, il 20 ottobre. Il 20 di ottobre di questo mese? Il 20 ottobre, sì. Siamo a ottobre 20, Tu sei un anno più grande di me. Io li faccio a novembre. Quindi, caro Gianni, purtroppo siamo in, come si dice, abbiamo fatto già la salita, adesso siamo di nuovo in discesa. Si viaggia forte, gappa gappa. Interessante andare avanti e averli vissuti questi anni, perché c'è gente che non riesce a arrivarci qua, c'è tanta gente giovane che muore giovane, incidenti, questo e quell'altro, e non ci arriva alla nostra età, quindi dobbiamo essere contenti di essere arrivati a questa età qua. Si conferma, io sono contentissimo, ma sono più contento se regge la ceda, capito? Se regge la ceda sono ancora più contento. E se non reggi, cosa devi fare? L'età è quella e si deve accontentare di altro. vabbè, fermo il di Dio Giulio, non è tanto dolore, anche la rigidura. Cosa vuoi fare? Andiamo bene, andiamo, mettiti di ottore squalo, non si è sentito oggi. Va bene, Gianetto, dai, io ti saluto per il momento, ti ripeto, la radio è accesa, è confermato che si può usare, allora usiamo sia questa che il K, dai, così la facciamo andare, l'ho messa sotto commutatore, almeno sono sicuro che la radio funziona bene, l'abbinamento è giusto, già va bene così. E io sono qua, e se no già ci sentiamo domani, ok? E no, io dopo non accedo perché poi mangio e mi guardo quel televisore, dai. E vabbè, comunque ho trovato la nipote di zio Giulio l'altro giorno, sono andato a Porto Torres, se ti ricordi dove era la pizzeria Il Gobbo. Siamo andati tutti in grefa, mia sorella, eccetera, eccetera, tutti i familiari, dai. Che eravamo da un po' che non ci vedevamo e siamo andati lì. E la cameriera era la nipote di zio Giulio, gli ho detto, ma tu cosa sei? Parente di zio Giulio? E la nipote sono. Allora deve essere la figlia di Federico per la fede. No, quella la io la conosco, quella è stata la mia collega. No, non era figlia di Federico. Quella la conosco. Non so, sarà la figlia della figlia, penso. Se la nipote è zio Giulio, quindi zio Giulio, io adesso ho tanti anni, mio fratello se lo ricorda sicuramente. Però Federico, il figlio, quello che c'era la mano che è invalido, quello è andato in pensione da poco ed era in portineria all'ospedale civile. Ah, Michele è morto, me. Ah, Michele si chiamava quello, morto Michele. E allora, è morto, già un po' di tempo che è morto. Sì, è morto Michele, poverino. Porca miseria, pensavo che era andato in pensione perché non l'ho più visto lì all'ospedale. Era in portineria lì in ospedale, alla sbarra, capito? A cipicchiare, è stata a scuola con me, Michele. Alle medie, mi pare, prima media era a scuola con me. Poi si era ritirato. No, poi si era trasferito, l'avevano trasferito al poliambulatorio di Porto Torres, lì dove c'è il canile di fronte, dove c'è la pulizia lì. L'avevano trasferito lì, faceva l'usciere. Ho capito, e vedi, io non l'ho più visto, pensavo che era andato in pensione perché è grande. La grande Michele. E invece vedi come cambia a cipicchiare. Vabbè, la vita tira campà. Va bene, già dai, anch'io vado a vedermi un TG, a ver se ci sono novità. Ti ripeto, grazie a te. dei controlli. Ci aggiorniamo domani allora, beh. Ok. Ehi, ciao, buona serata, ciao. Ciao.